Io senza te sono brivido sulla pelle. Io senza te sono cielo senza stelle. Io senza te sono nave alla deriva. Eri tu che rendevi questa storia viva. Passa il tempo ma io non riesco a dimenticare il sapore delle tue labbra ed il tuo odore. Tu sei come la febbre che ti blocca in un letto. Tu eri la speranza di condividere un tetto. Dopo storie andate storte pensavo fossi la meta. Eri l'unica scelta che pensavo concreta. Ed ho visto sfumare come nulla fosse stato. Una storia di magia nella quale ho creduto. Io senza te sono brivido su. Ricucir la falla, anche se so bene che quando ci si molla non si cerca la colpa, la si dà sempre all'altro. Purtroppo molte volte non ci si viene incontro. Tu sembravi accettare di buon grado la sconfitta, ma il cuore di una persona non è cosa che si affitta. Rivedevo sfumare fra mille paranoie quella storia di magia con errori, sapori e gioie. Io senza te sono brivido su. Sì, che mi darà la convinzione. L'ho perso per una, senza lume di ragione. È inutile che ti presenti con migliaia di scusanti. Con il volto di una donna, reduce di molti pianti. Non ci credo che non sapevi quello che volevi. Scivolando verso un abisso dal quale non risalivi. Ti perdono perché il perdono, come dicono, è divino. Ti stringo forte al petto, così ti terrò vicino. Io senza te sono brivido sulla.